Bisogna sottolineare che si pone il problema che può uccidere il gatto. Si spera che tutti siano onesti. Detto questo, la mia risposta è che non lo so. Succede. Caccia al fotone. Scienza e dintorni su Radio Città Fujiko. A cura di Fabio De Sicò. E benvenuti cari radioascoltatori alla puntata numero 178 di Caccia al Fotone, il podcast scientifico che ogni settimana vi intrattiene su amene discussioni su scienza e dintorni. Questa settimana ci occuperemo di fisica e analisi dei dati. Quante volte ci siamo sentiti dire che il processo scientifico è un processo lineare e senza errori? Questo è quanto di più sbagliato si possa comunicare in scienza. Il processo scientifico non è perfetto, è perfettibile, e gli errori del metodo scientifico possono risiedere addirittura nel metodo di analisi dei dati. Uno di questi metodi si chiama il metodo Monte Carlo ed è di questo metodo che parleremo all'interno di questa puntata. In particolar modo parleremo di un paper pubblicato qualche giorno fa su Archive intitolato Quantifying the Unknown, e ne parleremo con la dottoressa Maria Grazia Pia dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Buongiorno Maria Grazia. Buongiorno. Maria Grazia, all'inizio noi abbiamo 100 parole per introdurre la trasmissione, sono le 100 parole iniziali. E allora, se volessi riassumere un po' il contenuto di questo paper all'inizio di Caccia al Fotone, come lo riassumeresti? Allora, il metodo Monte Carlo è un metodo di calcolo statistico che generalmente possiamo dire si basa sull'uso di sequenze di numeri casuali. Usando queste sequenze di numeri casuali è possibile calcolare il comportamento di un sistema complesso che non si saprebbe risolvere analiticamente, o che comunque sarebbe difficile risolvere analiticamente, osservando il risultato di un grosso numero di tentativi, come se fossero tanti giochi d'azzardo. È questo che è da questo che deriva il nome di metodo Monte Carlo, che simulano gli eventi che sono responsabili poi del comportamento complessivo di questo sistema. Noi ci soffermeremo su un'applicazione particolare che è l'uso del metodo Monte Carlo per le interazioni di particelle con la materia. A questo punto quindi dei limiti del metodo Monte Carlo ne parleremo nella seconda parte della trasmissione. A questo punto andiamo ad ascoltare il primo pezzo musicale, poi torniamo in studio. Nella prima parte proveremo a descrivere il metodo Monte Carlo come analisi dei dati e nella seconda parte invece proveremo a capire se il metodo Monte Carlo è perfetto, tra virgolette, oppure no. A dopo. Al mio segnale, scatenate l'inferno. torniamo in studio sulla coda di Billy Comes Home degli Effervescent, sempre musica Creative Commons come nostro solito, e do di nuovo il benvenuto a tutti gli ascoltatori di Caccia Fotone. Ricordo che come al solito il nostro podcast è scaricabile dal sito www.cacciafotone.it. Ecco, per coloro che si fossero messi all'ascolto solo ora, ricordo che in questa puntata ci stiamo occupando di fisica, o meglio ancora di analisi dei dati, e ne stiamo parlando con la dottoressa Maria Grazia Pia dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Genova. La dottoressa Maria Grazia Pia l'abbiamo interpellata perché è uno degli autori di un paper, di un preprint pubblicato qualche giorno fa su Archive, intitolato Quantifying the Unknown. In particolare, in questo paper si cerca di analizzare il cosiddetto metodo Monte Carlo, un metodo detta in parole povere per analizzare un gran numero di dati scientifici. A questo punto, Maria Grazia, ridò di nuovo a te la parola. Che cos'è il metodo Monte Carlo e soprattutto per che cosa viene utilizzato? Allora, il metodo Monte Carlo e il suo uso. Come abbiamo detto precedentemente, il metodo è un metodo statistico generale che può essere applicato a diverse discipline. Il metodo Monte Carlo viene usato per predire il comportamento di un sistema complesso una volta che siano note delle condizioni di input che, diciamo, descrivono il modello che vogliamo studiare. Tipicamente viene usato nell'ambito della fisica nucleare, particellare, astrofisica, fisica medica, per studiare le interazioni di particelle, per predire o fenomeni fisici, come essi appaiono in un sistema di rivelazione, o per progettare e ottimizzare le caratteristiche di esperimenti, di rivelatori di particelle, provando, mediante appunto degli esperimenti virtuali, degli esperimenti teorici effettuati attraverso calcoli Monte Carlo, quale potrebbe essere il comportamento di diverse opzioni delle caratteristiche di questi rivelatori. È più semplice, meno costoso, più rapido poter fare dei calcoli con valore predittivo piuttosto che costruire dei rivelatori, costruire degli esperimenti. In certi casi non è semplicemente più semplice, ma è l'unica alternativa possibile. Come mai nel corso del tempo il metodo Monte Carlo si è imposto sugli altri metodi per analizzare una gran mole di dati, per esempio come quella necessaria per analizzare uno scontro di particelle oppure un'esplosione nucleare? I motivi sono molteplici. Uno è pratico, perché è possibile effettuare dei calcoli complessi, che sono quelli richiesti dal metodo Monte Carlo, a costo basso. Il costo del computing oggigiorno è infinitamente inferiore a quello che poteva essere 20-30 anni fa. Quindi i mezzi sono ormai alla portata di tutti. Io i miei calcoli Monte Carlo li faccio sul mio laptop. L'altro motivo è, sempre diciamo dal punto di vista, chiamiamolo così, economico, l'impossibilità proprio di eseguire degli esperimenti che diventano sempre più complessi e di fatto richiedono tecniche, tempi e investimenti di progettazione che sono fuori della portata, diciamo, della costruzione del piccolo esperimento di laboratorio che poteva avere un senso magari negli anni 60. Grossi codici, dei grossi sistemi di simulazione Monte Carlo sono disponibili, in buona parte open source, sono sempre più validati, quindi esposti al confronto con risultati sperimentali per determinarne la loro affidabilità, e quindi, diciamo, lo sperimentale medio ha a disposizione questi strumenti potenti per poter applicare il metodo al suo contesto sperimentale. Percorrendo un po' la storia del metodo Monte Carlo, ci accorgiamo che in realtà la prima volta che venne applicato il metodo Monte Carlo su un'enorme quantità di numeri possiamo datarla al progetto Manhattan, allo Salamos, intorno agli anni 40. Oggi il metodo Monte Carlo, oltre alla fisica e alla fisica medica, in quali altri campi viene utilizzato? dappertutto, in ambito finanziario per esempio sono diffusissimi, in meteorologia. Già Fermi negli anni 30 aveva usato concettualmente dei metodi Monte Carlo, per esempio per studiare il trasporto di diffusione di neutroni, e addirittura, se si vuole diciamo andare più indietro, addirittura nel XVIII secolo, dal punto di vista matematico, erano stati usati dei metodi Monte Carlo, in quel caso per risolvere problemi matematici. Il progetto Manhattan è stato la prima, chiamiamola così, grossa applicazione del metodo Monte Carlo in ambito fisico. Fortunatamente adesso le applicazioni non sono solo in ambito militare, ma soprattutto in ambito scientifico e, come si diceva, anche per esempio di fisica medica. A questo punto, dopo questa importante precisazione, ci andiamo ad ascoltare un secondo pezzo musicale, poi torniamo in studio, e quando torneremo in studio analizzeremo, come nostro solito, il contenuto del paper che abbiamo introdotto all'inizio della trasmissione. A dopo. Ragazzi, se la realtà fosse così. Well, I talk to the animals day after day, and together we figure it out. Yeah, we meet by the bramble bush down by the stream and discuss the concerns and the doubts. Well, I don't know what I'm looking for, but it sure don't have two legs. This is no sad sorry metaphor. This is no sad sorry pretend. These are the creatures above and beyond my integrity, forging ahead when the corporate's a dead. Once the sun's up, we'll meet by the river, and once we're tooled up, we'll stand and deliver. Gonna leave their cold confusion. Ed è sulla coda di A Friend for Life degli Effervescent che torniamo all'interno di Cacciafotone. Un saluto a tutti coloro che hanno voluto rimanere in nostra compagnia questa settimana, in cui ci stiamo occupando non di un risultato scientifico, ma ci stiamo occupando di un metodo scientifico, il cosiddetto metodo Monte Carlo. Di questo metodo ce ne stiamo occupando utilizzando un pretesto, e il pretesto è l'uscita, la pubblicazione su Archive di un preprint intitolato Quantifying the Unknown. Abbiamo in collegamento al telefono, in collegamento via Skype, la dottoressa Maria Grazia Pia, ricercatrice presso l'INFN di Genova. Ecco, svelo subito il perché mi è piaciuto moltissimo questo articolo e perché abbiamo deciso di trattarlo questa settimana. Nella maggior parte dei casi, nel 99% dei casi, le riviste scientifiche pubblicano dei risultati, ma sono veramente poche le ricerche scientifiche che si interrogano sul come vengono ricavati questi risultati. E questo è, secondo me, anche il significato più intrinseco della scienza. La scienza non è perfetta, la scienza è perfettibile, ha un metodo per arrivare alla verità. E interrogarsi a volte sul come vengono ricavati i risultati, se gli algoritmi sono giusti o sbagliati e quale livello di affidabilità abbiano questi metodi particolari, secondo me è una domanda che ogni tanto va fatta. E allora a questo punto, Maria Grazia, do di nuovo a te la parola. Quali sono le applicazioni del metodo Monte Carlo? Il metodo Monte Carlo, applicato in questo caso a problemi fisici, si basa su modelli di interazione delle particelle con la materia. Questi modelli derivano in parte da misure sperimentali o sono stati validati attraverso misure sperimentali, in parte sono modelli teorici o fenomenologici. Il risultato della simulazione, in ultima analisi, dipende da quanto sono buoni questi modelli e quanto sappiamo quantificare la correttezza e l'accuratezza di questi modelli. In alcuni casi non siamo capaci di farlo. Alcuni dei modelli o dei parametri fisici che sono contenuti nei codici Monte Carlo nascondono la nostra ignoranza per vari motivi, perché non esistono misure sperimentali che hanno validato il modello, oppure perché ne esistono troppe e queste sono discordanti e non siamo in grado di definire il valore vero o di assegnare un valore probabile di queste misure. Oppure non sappiamo abbastanza su come sono stati fatti i modelli, perché non sono stati adeguatamente documentati. Per esempio, non sappiamo se derivano da parametrizzazione di dati sperimentali, quali dati, perché quelli. Insomma, ci possono essere vari motivi per cui nella nostra modellizzazione alla base della simulazione Monte Carlo ci possono essere delle zone d'ombra che rispecchiano la nostra ignoranza. E non è facile sapere se possono avere degli effetti sulle quantità fisiche che o misuriamo o che vogliamo valutare come risultato della simulazione. E questo è un po' il tema dell'articolo. Allora, andiamo un attimo per gradi senza parlare in astratto. Per analizzare il metodo Monte Carlo, che tipo di simulazione avete fatto? Allora, per non ragionare in astratto, abbiamo deciso di ancorarci a un problema concreto. Abbiamo preso un problema che dal punto di vista fisico è relativamente semplice, proprio per evitare di, diciamo, sovraccaricare il problema stesso con troppe incertezze nella comprensione del metodo. Quindi abbiamo preso la distribuzione di energia depositata in funzione della penetrazione in un materiale, in questo caso acqua, che deriva da un fascio di protoni che attraversa una linea che trasporta questo fascio di protoni. Detto così dice poco, la geometria il modello di questa linea, di questo fascio di protoni, rispecchia un sistema reale di adroterapia oncologica operante in Italia. La geometria la modellizzazione di questo sistema è stata fatta dalle persone che operano su questa linea di fascio, e noi siamo andati a studiare come le incertezze della simulazione Monte Carlo possono avere effetto sulla distribuzione fisica osservabile, che è l'energia depositata nel volume sensibile, in questo caso rappresentato da acqua, ma che potrebbe essere l'occhio del paziente sottoposto a terapia. I risultati osservabili mancano oppure non sono utilizzabili per la validazione dell'osservabile finale, definitiva, di interesse. Un po' complicata la cosa. Allora, in queste linee di fascio, l'osservabile è questa distribuzione di energia depositata nel volume sensibile. Questa si sa misurare, ne esistono infatti diverse misure e confronti fra misure e simulazioni Monte Carlo del sistema. Il problema però è che queste linee di fascio non permettono di conoscere l'energia del fascio con precisione adeguata per poter basare una simulazione sui parametri nominali, l'energia, la distribuzione di energia del fascio, e quindi predire quello che dovrebbe essere l'osservabile aspettata. Quindi cosa succede? Che per fare dei confronti fra misure in queste linee di fascio e simulazioni del sistema, viene calibrata l'energia del fascio intorno al valore nominale usando i risultati della simulazione stessa. In questo modo anche facendo delle misure, non è possibile validare la simulazione, perché chiaramente se uso le misure per calibrare la simulazione, poi non le posso usare per validarla. Dovremmo fidarci della bontà dei modelli fisici contenuti dentro il sistema di simulazione per essere in grado di predire se la nostra osservabile finale sia corretta o meno. Oppure dovremmo fare degli esperimenti che ci consentano di fare delle misure di altro genere in cui non sia necessario calibrare l'input della simulazione stessa. Quindi l'idea di questo paper, di questo caso sperimentale, è proprio di andare a capire se intrinsecamente nei modelli, negli ingredienti della simulazione Monte Carlo, ci sono queste sacche di errore, di ignoranza, che possono avere degli effetti poi sull'osservabile fisica finale. Maria Grazia, non ti ho interrotto e ti ho lasciato parlare così tanto perché fondamentalmente le cose che stavi dicendo erano strettamente interessanti. Ci hai detto in parole povere che prima di utilizzare il metodo Monte Carlo andrebbe tarato, bisognerebbe vedere quali livelli di errori ha al suo interno il metodo Monte Carlo, e solamente una volta analizzati i livelli di errori, allora a quel punto si potrebbe utilizzare per analizzare i dati. E questo è un problema non di poco conto, soprattutto quando si vanno a intersecare dei calcoli di fisica medica. Esattamente, esattamente. Quindi lo scopo di questo articolo è proprio cercare di suscitare uno spirito critico negli utenti di queste tecniche, che sono tecniche potenti, che possono essere tecniche molto precise, incitando gli utenti a capire nel loro ambito di applicazione quali possono essere gli errori, i problemi, l'ignoranza intrinseca che è nello strumento che viene usato. L'articolo mostra che in alcuni casi queste sacche di ignoranza in questa applicazione precisa possono avere effetti relativamente limitati, quasi invisibili, che sono, diciamo, di ordini di grandezza simili a quelle che possono essere le incertezze sperimentali in questo ambito applicativo. In altri casi, invece, alcune di queste sacche di ignoranza, chiamiamola così, nella nostra modellizzazione fisica, possono avere degli effetti potenzialmente molto grossi, che a seconda dell'uso che si fa del sistema possono essere più o meno critici. Per esempio, in questo caso abbiamo notato che uno dei modelli fisici, a seconda dei parametri, può cambiare il deposito di energia di qualcosa dell'ordine del 10-15%, che, dicono gli oncologi, può essere un numero grosso in questo ambito applicativo se il sistema viene usato per fare delle predizioni, chiamiamole così, assolute. Se viene usato per fare delle predizioni relative, quindi rapportandosi a un valore di riferimento, questo può essere invece un problema, diciamo, non grave. Altre sacche di ignoranza, infatti nell'articolo ne mostriamo alcune, possono spostare il picco della deposizione di energia nel volume sensibile di qualcosa dell'ordine di 100-200 micron. Quindi, diciamo, a seconda del tipo di applicazione, questi errori possono essere più o meno critici. Quindi è importante non solo quantificare l'effetto di questi errori dovuti alla nostra ignoranza, ma farlo specificatamente per ogni caso di applicazione, perché gli effetti possono essere diversi a seconda del tipo di applicazione. Maria Grazia, a questo punto ti faccio la domanda grafico, la classica domanda grafico che faccio qui a Caccia al Fotone, quindi invito tutti i nostri ascoltatori a cliccare sulla piccola immagine riportata all'interno del nostro post, si aprirà un'immagine un pochino più grande, e quella è la cosiddetta figura 5 inserita all'interno del vostro PowerPoint. In questa figura 5 ci sono dei cerchietti, ci sono dei quadratini, ci sono dei triangoli, e tutti quanti sono inseriti all'interno di questo grafico, che rappresenta qualcosa. Che cosa? Allora, questo è il risultato di diversi modelli di simulazione di interazioni nucleari con dei protoni e dei loro secondari. Per descrivere queste interazioni nucleari esistono appunto diversi modelli. Non sappiamo dire di questi modelli quale sia il meglio, quale sia il peggio. Alcune possono avere caratteristiche diciamo interessanti, valide per alcuni tipi di osservabili, per alcuni ranges di energia, e altri possono essere più validi in altri tipi di applicazione. Per questo range di energia e di contesto di applicazione, diciamo, tutti questi modelli sono ugualmente interessanti, perché non abbiamo sufficienti dati sperimentali per definire quale sia il migliore. Allora, cosa abbiamo fatto? Siamo andati a vedere la distribuzione di energia che deriva da questi modelli, più o meno uguale per tutti. Sono allora del tutto equivalenti? No. Questa figura 5 ci mostra che, pur generando la stessa distribuzione di energia entro diciamo gli errori statistici, questi diversi modelli di interazioni nucleari generano diversi spettri di particelle secondarie, quindi diverse distribuzioni di tipi di particelle e di energia di queste particelle. In questo caso la figura 5 mostra i neutroni secondari. Queste particelle secondarie possono avere degli effetti, in questo caso per esempio in ambito fisico-medico, che possono essere importanti anche se non contribuiscono direttamente al deposito di energia. Quindi il porre l'attenzione sul fatto che possono generare distribuzioni diverse nel caso dei secondari, che a loro volta possono avere effetti significativi, di nuovo è un modo per dare un messaggio agli utenti, ai ricercatori che usano queste tecniche per applicazioni critiche, per dire: stiamo attenti, qua ci possono essere degli effetti diversi, ma non sappiamo quali siano quelli corretti. A questo punto ci fermiamo un attimo per un minutino, ci andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale, poi torniamo in studio, e quando torneremo in studio ti farò l'ultima domanda di Caccia Fotone. A dopo. Grande Giove. Jesse James, kiss your face if you could see what your hands are holding. You think it's fun to handle a gun when you got no coordination going. You got me looking like some kind of freak show. You love me, I'll pretend you got a peep show. Another stint, am I just another gift? I'm going down in the ground where I'll never be found. I'm going down. Maria Grazia, siamo alla fine di Caccia Fotone, quindi ti faccio l'ultima domanda, che è la domanda conclusiva, che è anche la domanda che abbiamo definito la domanda zainetto. Ecco, se dovessi ricordare una sola cosa fra le tante che hai vissuto dal momento in cui è cominciata questa ricerca, al momento in cui questa ricerca è finita, al momento in cui questa ricerca è stata pubblicata su Archive, quale delle tante cose metteresti nel tuo zainetto per portarla dietro con te nella tua carriera da ricercatrice? Lo spirito critico. Diciamo, questa è una ricerca di fisica, di modellizzazione, ma soprattutto di epistemologia della fisica. Questo, diciamo, è un ambito di ricerca cui spesso ci dimentichiamo e che invece è importante, perché se non sappiamo valutare il metodo con cui i nostri risultati sono prodotti, i nostri risultati stessi rischiano di essere deboli. Si conclude così questa 178esima puntata di Caccia Fotone. L'appuntamento è la settimana prossima dal sito www.cacciafotone.it, e con l'augurio solito di una buona scienza a tutti. Ciao!